cos'è la sera. Da quando è tutto bianco, tutto blu. Dalla terrazza è lungo la riviera. Non più il presepe, ma cantieri e gru. Dove ci dovremmo innamorare? Con sti colori da penitenziario. Il borgo trasformato in ospedale. Quell'aura non c'è più. Da quando è fredda pure. E tutti quanti sotto osservazione, che non ci si alzi la melatonina. Ma po' fanculo l'iperproduzione. Sogniamo almeno fino a domattina. Dilapidare questo led glaciale. Di dare fuoco a questo manicomio. E quando arriva la municipale. Yeah.